Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Quando arriva lui? Eccoci qua, cari ascoltatori, eccoci qua, sabato 22 luglio, sono le 10, 5 primi 46 secondi. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto ai Conti da Belva, in diretta o in podcast. Spero comunque a quelli in diretta di poter dire che sia un buon sabato, una buona domenica per voi. Oltre a me in studio c'è il compare Carlo Alberto Carnevale Maffè. È collegato l'altro compare. Buongiorno a tutti da Mario Seminerio. Ecco Mario Seminerio, siamo più tardi, ci aggiungerà Renato Cifarelli, il nostro imprenditore del giro. Di che cosa parliamo oggi, in maniera che possiate subito decidere se chiamarci all'800240024. Vi dico subito, due blocchi di grandi argomenti, oltre come al solito all'inizio in cui faremo il punto dei dati della settimana, di alcune questioni che riguardano l'Italia, il fisco e così via, ma i due grandi blocchi sono il primo dedicato ancora una volta ai problemi del credito delle banche, perché c'è il recepimento della direttiva MiFID 2 in corso e avvengono cose molto strane, le sentirete, ma soprattutto c'è una parte ancora che riguarda, come sabato scorso, cari soci, azionisti, obbligazionisti delle Venete, voi, perché faremo ancora il punto, come sabato scorso, di cause impugnative, proteste che avanzano, cosa non resta chiaro, quindi sarà di nuovo con noi l'avvocato Piero Cecchinato. Quindi se avete dubbi su le vostre obbligazioni, che cosa fare per recuperare, o l'avevate già provato a fare ma nel frattempo non avete ancora capito che cosa dovete fare per insinuarvi al passivo, chiamateci 800240024. Dopo la pausa del giornale radio invece avremo una parte dedicata a uno dei nuovi fallimenti epici con coda polemica del fisco italiano, quello che riguarda la tassa per gli affitti brevi nel settore turistico, la tassa, chiamiamola anti-Airbnb, ma che alla fine per insipienza del legislatore è divenuta il dovere di tramutarsi in sostituto d'imposta per i 120.000 host italiani, oltre che per le agenzie intermediarie, ed è stato un problema ancora irrisolto, e ne parleremo con chi rappresenta appunto la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari. Poi avremo Udo Gumpel, ci sono diversi temi che riguardano la Germania da chiarire, perché il primo è la rottura o comunque l'evoluzione un po' contrastata dei rapporti con la Turchia, l'ipotesi del grande cartello tra le aziende automobilistiche tedesche che si affaccia prepotentemente sulla scena dei media e che potrebbe ulteriormente complicare la vicenda dello scandalo diesel Volkswagen. Ormai bella iniziata. La copertina di Der Spiegel, bellissima, due occhi neri rigorosamente a LED su un titolo da cartel, esattamente, quindi il cartello. Oltre a questo però cominciamo subito. Mario Seminerio, cosa aggiungiamo a questo menù secondo te della settimana, cosa ti ha colpito? Beh, io parlerei sicuramente di Alitalia, perché ieri alle 18 è scaduto il termine per la presentazione di offerte non vincolanti, pare che ne siano arrivate 10, pare che siano tutti interessati allo spezzatino, ma guarda che sorpresa, e pare invece già da dichiarazioni del Ministro dei Trasporti e Infrastrutture Delrio che si punterà a venderla intera. Adesso il problema è: potrebbe servire un ulteriore prestito ponte, magari per scavallare le elezioni, perché in Italia c'è sempre un'elezione dietro l'angolo, che è quello che poi è alla base del disfacimento dei conti pubblici e delle mance che vengono elargite, oppure potrebbe nascere, il che è lo stesso, l'ennesima bad company, cioè quella che abbiamo visto dopo la crisi del 2008. Il problema però è che se ogni volta, diciamo ogni 8-10 anni, da Alitalia deve generarsi come un carciofo che viene sfogliato, una bad company, e sono alcuni miliardi a carico dei contribuenti, io non so di questo passo dove finiremo. Non aggiungo signora mia, perché magari questo lo possono aggiungere tranquillamente gli ascoltatori, però la situazione è abbastanza drammatica, ma abbastanza ridicola. Cioè, Del Rio ha detto anche che potrebbe servire una presenza pubblica nel capitale della nuova Alitalia. Io lascio a voi i commenti e le considerazioni di questa sorta di teatrino che prosegue negli anni imperterrito. No, no, ma è molto chiaro. Graziano Del Rio ha già rilanciato dei sindacati ieri a commento, ieri sera, delle prime manifestazioni di interesse. Non sono vincolanti, vogliono dire molto poco. La stessa modalità, caro Mario, di organizzazione della gara in 3 set diverse con cose non vincolanti è fatta apposta per perdere tempo. Parliamoci chiaro. Li hanno ammessi ai dati e non c'era nessun dato aggiuntivo rispetto a quelli che sono del tutto opachi che ci hanno rilasciato anche a noi giornalisti. Non hanno proceduto al deposito del bilancio consolidato 2016, mi dispiace notarlo, perché Carlo Calendo aveva preso un impegno dai microfoni di Radio 24, anche con me personalmente Alessandro Milan, dopo che ne avevamo parlato qui qualche sabato fa, e quindi è chiaro che i sindacati hanno immediatamente detto: beh, ma il ministro ha già assicurato che si andrà avanti a oltranza e che è escluso a questo punto ciò che invece è nell'esplicito bando. Cioè, il bando diceva che oltre a candidarsi per rilevarla intera ci si poteva candidare o per rilevare pezzi oppure per partecipare come protagonista, magari insieme ad altri, a un turnaround basato sul concetto good company, bad company. Il ministro ha ridotto così, fatus focis, lui, i 3 obiettivi possibili di un bando che resta in corso a uno solo. I sindacati hanno immediatamente detto: per noi va benissimo, denaro pubblico, ragazzi, a fiumi. La cosa che abbiamo capito, preparatevi a un altro bel macro finanziamento per l'Italia di qualche altro centinaio di milioni, diverse. Non sappiamo qual è il ritmo di perdita, naturalmente, post commissari, che ne hanno parlato molto bene di sé ma numeri non ne hanno dato. Sappiamo però che prima si perdeva 100 milioni l'anno, un miliardino all'anno. Io invece devo dirti cose turche ieri alla stampa, perché fatemi prendere una posizione chiarissima di solidarietà al collega Gianluca Paolucci della stampa e a tutta la redazione di Torino, perché ieri è successa una cosa gravissima, dicevo appunto cose turche. La Guardia di Finanza, su denuncia dell'amministratore delegato di Unipol, che è stato un po' pescato con le mani nella marmellata proprio dai giornalisti della stampa, che hanno pubblicato documentazioni sull'attività di lobbying fatta contro la liberalizzazione delle tariffe. Si parla di un rapporto diretto tra Unipol e i gruppi PD, con Unipol, certo, che diceva: non dovete dividervi, questa è la linea, ma non dite che siamo noi. Esatto. Voglio solo ricordare il comunicato del CDR della stampa, che si sono presentati ieri mattina nell'abitazione del collega e sul posto di lavoro gli ufficiali della Guardia di Finanza, che hanno sequestrato telefoni, computer, chiavette USB, schede di memoria, hanno addirittura frugato dalla camera dei piccoli, le scatole dei giocattoli, la Vespa in garage, hanno sequestrato metà di roba, in materiali, archivi e documentazione del giornale. Quindi noi, pugno duro contro i giornalisti che fanno il loro mestiere di denunciare l'attività delle lobby, le quali invece felicemente vanno a braccetto con i candidati alla presidenza di importanti banche, delegati dal presidente, ex presidente del Consiglio alla riforma della spesa pubblica. Andiamo avanti così, dai, penalizziamo chi fa il lavoro dell'informazione e invece premiamo chi si presta alle pressioni delle lobby. Mi sembra un bellissimo paese in cui abitare, caro Oscar. Solidarietà totale di noi tutti, anche di Mario, che in sottofondo, non so se gli ascoltatori hanno sentito fin dall'inizio, approvava. È una cosa invereconda. Fatemi dire che io sono molto preoccupato anche per quello che avviene a TIM, l'ex Telecom Italia, perché anche se, e ci avrei scommesso, l'ho twittato subito ieri, immediatamente ho detto tutti diranno colpa dei francesi Vivendi, è ovvio che la decisione viene per il ruolo, questo 23% che Vivendi ha in Telecom, e esercitando di fatto un controllo sia pur subiudice dal punto di vista delle autorità formali di mercato. Ma quello che preoccupa me, avendo parlato nei giorni scorsi con autorevolissimi rappresentanti dell'azienda, è il ruolo che è del tutto non dichiarato che la politica ha giocato. La politica, sto parlando sì del PD, sto parlando di Matteo Renzi, per essere chiari, che molte fonti disegnano come molto attivo insieme a Bolloré per lo sviluppo che è avvenuto ieri. Quindi un Cattaneo identificato come un manager non sufficientemente allineato al fatto che sulla banda larga ha, ed è questo che interessa molto all'ex Presidente del Consiglio, questa attività di contrasto posta in essere verso la banda larga pubblica del progetto Open Fiber dell'Enel e di MetroWeb, lo ha posto, per così dire, una condizione di essere mandato a casa. E questo giudizio, che si sposa molto molto bene con l'interesse dei francesi di abbassare, per così dire, la polemica, avendo dall'altra parte aperta la questione ancora Mediaset, una politica che gioca a gamba tesa in silenzio, esattamente come Unipol gioca in silenzio la partita della manomissione delle leggi della concorrenza. Guarda caso però il segno politico è lo stesso. Allora, è brutale quello che dico, mi espongo alle conseguenze, però sto facendo anch'io il mio mestiere, perché avrei scommesso, e purtroppo ho vinto, sul fatto che i giornali stamattina, che sono tutti al corrente di quello che vi sto dicendo, perché non sono un pistarolo particolarmente più bravo di tanti altri, nessuno però pone un pochino di attenzione sul fatto che c'è anche la politica dietro il fatto che Cattaneo se ne va. I 30 milioni a me fanno orrore, ve lo dico anche, io sono per la metodologia libera di fissazione dei compensi, caro Carlo Alberto, però 30 milioni per un anno sono cose che appaiono dei ceffoni inverosimili, non so come la pensi tu. Tu dici io, no? Io penso che avrebbe dovuto chiederne 300 per essere cacciato in questa maniera qua, visto che stava facendo un discreto lavoro dal punto di vista della riorganizzazione, magari non straordinario dal punto di vista della strategia, ma tant'è. Francamente, se mi dici che queste pressioni politiche, è evidente insomma quello che è successo, hanno giocato un ruolo, me ne dispiaccio ancora di più. In ogni caso, noi abbiamo bisogno della Telecom Italia stabile e con le idee chiare per il paese. Non mi sembra che stia succedendo, mi sembra che i francesi non stiano dando prova di lucidità strategica e siano un po' ballonzolanti da questo punto di vista. Speriamo bene, ma non è un bel segnale sicuramente. Benissimo, un minuto e torniamo. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non vi preoccupare. Ed eccoci la sigletta e lo stacco di Troisi, ricordi che devi morire, e il classico segnale che ci dà l'ingresso nella rizza, nel campo di battaglia della puntata del sabato, con Mario Seminerio che ci fa il punto. Da cosa cominciamo? Da quali dati della settimana? Quali considerazioni, Mario? Ma io comincerei dalla meeting della Banca Centrale Europea, perché era molto atteso, si sta aspettando l'inizio, l'annuncio dell'inizio della fuoriuscita graduale dall'easing quantitativo, non c'è stato di fatto. Draghi si è detto soddisfatto per l'andamento congiunturale dell'eurozona, tuttavia ha detto che l'inflazione è ancora ben al di sotto del target, che serviranno ancora stimoli. Nel comunicato ufficiale non è stato rimosso, come invece quasi tutti si attendevano, il riferimento alla possibilità di aumentare l'acquisto di titoli se le condizioni lo richiedessero. E alla fine come ha reagito il mercato? Essenzialmente in due modi. Il primo è che ha premiato i paesi periferici e a maggiore rischio, tra cui anche l'Italia, provocando un restringimento dello spread sul Bund, e questo sicuramente è un dato positivo. Il secondo è che il mercato, dopo avere compulsato il comunicato ufficiale della BCE, ma soprattutto quello che non ha detto Draghi in conferenza stampa, ha ritenuto che Draghi in questo momento sia del tutto indifferente al livello del cambio dell'euro. Per cui il cambio dell'euro, che già era da settimane in forte apprezzamento contro dollaro, si è ulteriormente rafforzato e oramai è vicino all'1,17. Evidentemente i mercati adesso vogliono testare dov'è la soglia del dolore dell'euro per quanto riguarda gli esportatori. Non è un caso che questa settimana abbiano sofferto in generale le borse europee, ma soprattutto quella tedesca, che è un paese fortemente orientato all'export, anche se non così necessariamente sensibile al cambio, oltre che per i problemi del settore auto tedesco con il rischio di cartello e quant'altro. Quindi sarà interessante vedere nei prossimi mesi, nelle prossime settimane direi, meglio ancora, dov'è la soglia del dolore, dove il mercato tenderà a portare il cambio dell'euro contro dollaro e dove inizieranno i piagnistei italiani. Perché dove i nostri amici, tra virgolette, no euro, riprenderanno fiato dicendo che serve svalutare il cambio, ad esempio, ma anche i nostri politici. Mentre nel frattempo un altro dato molto interessante, secondo me, è il fatto che Eurostat ha pubblicato l'aggiornamento trimestrale del rapporto debito-PIL sia nell'Unione Europea a 28 che nell'Eurozona, e sull'ultimo anno l'Italia, il rapporto debito-PIL italiano, è sceso dello 0,1%, 0,1, è rumore statistico. Contrariamente al fatto che il professor Marco Fortis ce lo aveva annunciato da alcune settimane, questa non è una svolta, perché se voi guardate un'Austria meno 4% in un anno, lasciamo stare esagerati, la Germania meno 5, esagerati. La moribonda, come viene descritta almeno dalle nostre parti, Finlandia meno 1,6, la Spagna meno 0,8, ma l'Italia con meno 0,1 è solo rumore statistico, cioè l'Italia nel periodo di maggiore crescita degli ultimi 8 anni riesce a ridurre il debito PIL dello 0,1%, qui non c'è da suonare la fanfara, non c'è da rallegrarsi, ma al limite c'è da preoccuparsi, perché se quando la congiuntura frenerà, non è un problema di se, è un problema di quando, noi torneremo nei casini. E intanto se permette, anche il dato congiunturale, cioè il primo trimestre di quest'anno rispetto all'ultimo trimestre del 2016, più 2,1, cioè quindi la tendenza non è a migliorare, la tendenza purtroppo è a peggiorare. Adesso vedrai con i salvataggi bancari, no? Visto che i saldi sono peggiorati subitaneamente per pagare, diciamo, la buona entrata Intesa, e questi ce li ritroviamo nei saldi del prossimo trimestre. Quindi, poi nel frattempo segnalerei al volo che i nostri amici britannici stanno serenamente evolvendo nel loro percorso verso una cosa chiamata Brexit, verso l'accettazione, ma anche da parte dei Brexiter più duri e puri, di un periodo di transizione che potrebbe durare 2 anni o forse 3, o forse potrebbe durare tutta la legislatura, cioè fino al 2022. Durante quel periodo il Regno Unito continuerà a contribuire al budget dell'Unione, continuerà ad essere sottoposto alla giurisdizione della Corte Europea di Giustizia e continuerà la libera circolazione dei comunitari entro il Regno Unito. Per cui, visto che da noi qualcuno, confondendo il concetto dell'euro con il concetto dell'appartenenza all'Unione Europea, che sono due animali completamente differenti, cari amici, pensava che fosse possibile anche in questo caso uscire dall'Unione Europea durante un weekend, meglio se piovoso, pare che le cose non stiano esattamente in questi termini. E quindi alla fine, diciamo, credo che questa Brexit si risolverà nei libri di storia come una delle più grosse cazzate fatte dal popolo britannico, che balza in testa e addirittura surclassa gli italiani nella classifica delle cazzate. Vabbè, comunque è interessante capire che anche il secondo round dei colloqui, dei pre-colloqui, perché in realtà la trattativa aperta ancora sull'articolo 50, attivato ormai da un bel po', da più di un anno dal referendum, ecco, nemmeno questo secondo round sulle precondizioni per aprire la trattativa è risultato utile a raggiungere un minimo di convergenza sui due punti di questo pre-trattativa, che sono innanzitutto il bill, cioè il conto preventivo che va concordato tra le due parti, che il Regno Unito riconosce di dover pagare per l'uscita, per l'ottemperanza delle sue obbligazioni esistenti. Intanto il Regno Unito ha accettato l'idea che il bill esista, perché la May all'inizio diceva di no, però non ci siamo. E il secondo punto è quello del un quadro concordato per il rispetto dei diritti dei cittadini, quelli dell'Unione Europea in Gran Bretagna e viceversa, ma è naturalmente quello dell'Unione dei cittadini dell'Unione Europea in Gran Bretagna il punto. Niente, tant'è che sui giornali britannici iniziano ad apparire, l'ho segnalato ieri, interessanti articoli sugli 8 modi per stare nell'Unione Europea, i 9 modi per stare nell'Unione Europea, perché nei sondaggi a oggi, vuol dire poco, ma intanto vuol dire, il Remain è a 54-55%, tanto per dirne una. Devo dirvi, cari ascoltatori, che questa settimana io aggiungo però alcune cose fiscali che hanno fatto sobbalzare noi poveri autonomi e che stanno sottoponendo migliaia e migliaia di commercialisti italiani a elettroshock permanenti. Perché? Perché ci sono state due sentenze, ma le richiamo brevemente. La prima è quella in cui la Corte Costituzionale conigliescamente, purtroppo ancora una volta, si è sottratta al tentativo delle commissioni regionali tributarie, che gli chiedono: ma per favore, puoi dire all'Agenzia delle Entrate, all'apparato tributario italiano, che vale anche da noi il principio europeo del diritto al contenzioso, cioè no, scusami, al diritto al confronto diretto con il contribuente prima di assumere provvedimenti nei suoi confronti? E la Corte Costituzionale ancora una volta si è sottratta dal dare una risposta a questo. È un principio europeo di sacrosanta civiltà, da noi non vale, vale solo per i tributi europei, cioè per l'IVA, non vale per gli altri. Quindi il fisco ti manda i provvedimenti esecutivi, ma ha diritto a non chiamarti. E questo già è uno schifo. Secondo, ci mancava la botta di giustizialismo europeo, della Corte Europea, che dice l'Italia sulle procedure, sui procedimenti penali fiscali deve sospendere le prescrizioni di grado di giudizio in grado di giudizio, cioè l'esatto opposto di quello che dovrebbe essere sancito e riconosciuto, come è avvenuto anche nella nostra costituzionale, cioè il principio al giusto processo. Perché dovrebbero saltare le prescrizioni consentendo allo Stato ulteriormente di fare quello che vuole? Il base di questo pronunciamento della Corte Europea è quella di dire: perché voi siete così indietro, avete l'evasione più alta in Europa dell'IVA, e quindi tra le più alte, a dire la verità, non proprio la più alta, ma quindi se neanche nei processi riuscite a beccare i soldi indietro e a condannare, l'avrete ancora più alta, ma questa è una resa in termini di diritto. Ecco, questo è lo sfondo di diritto. Processo infinito come soluzione, esatto, alla bassa compliance. Mi sembra proprio razionale, caro Oscar. Nel frattempo lo Stato e l'amministrazione ci mette il suo, perché abbiamo avuto questa settimana una cosa pazzesca, cioè c'era la scadenza a fine giugno per il pagamento della prima rata per redditi impresa e personali da impresa per l'anno prossimo. Quella scadenza è passata senza che fossero chiare le modalità del decreto attuativo, che è avvenuto dopo quella scadenza. La scadenza successiva, quella al 20 di luglio, era quella entro la quale i soggetti agli studi di settore e al reddito d'impresa erano ammessi al pagamento, ma con la prima rata di interesse dello 0,4% in più. Che cosa avviene? Che avviene che una circolare viene emessa il lunedì precedente della scadenza e fa sobbalzare tutto, perché bisogna rifare i calcoli su tutto. E poi il 20 luglio l'amministrazione tributaria proroga al 20 luglio, al giorno stesso, la scadenza senza pagamento maggiorato. Quindi chi, bestemmiando, si era adeguato alla circolare venuta 72 ore prima, ha ulteriormente sbagliato coi clienti, che dicono: ma perché non hai aspettato, tanto è arrivata la proroga. Ecco, come si può, cari ascoltatori, vivere in un paese di questo genere? Vi sembrano cose tecniche, si riguardano 1,5 milioni, 2 milioni di contribuenti, non riguardano il resto delle 40 milioni e 700 mila partite fiscali aperte, nella posizione fiscale aperta nel nostro paese? Ma è un'indegnità, è un'inciviltà farsi trattare così, un'inciviltà. Prendo atto che Ernesto Maria Ruffini, che ieri ha esordito come direttore dell'Agenzia delle Entrate, l'ex capo di Equitalia che viene ammessa in Agenzia delle Entrate e lui ne diventa il capo, ieri, bontà sua, ha detto che non è contrario al principio del contraddittorio. Faccelo vedere, perché io sono invece sicuro che, forte del fatto che la Corte Costituzionale ci prende a calci nel sedere, sarà tuo interesse ovviamente non ammetterci al contraddittorio, perché, come ovvio, una monarchia assoluta spregevolmente indifferente ai diritti di noi contribuenti sa che non protestiamo, e quindi perché mai tu dovresti darci un contraddittorio a cui io non ho diritto in questo cazzo, stracazzo di paese, da questo punto di vista infernalmente vicino e peggiore all'inferno di Dante? Ecco, io la penso così. Le circolari di questa settimana sono un monumento ignobile alla mancanza più elementare di rispetto da parte dello Stato nei contribuenti, capite? E solo perché siamo un paese di imbelli, la gente non si mette muta in silenzio, allineata a migliaia di fronte alle sedi dell'Agenzia delle Entrate, dicendo: non commettiamo alcun reato, ma qua non vi facciamo entrare. Perché questo bisognerebbe fare: impedirgli di porre in essere una strategia di sistematica calpestamento dei diritti dei contribuenti. Le circolari che prorogano al giorno stesso scadenze già violate precedentemente per mancanza di direttive in tempo utile per fare le dichiarazioni sono una resa ignobile. Questa è la mia sobria, come vedete, soberrima esposizione, soberrima, però devo dire la verità. Cari commercialisti che ci avete scritto questa settimana, come vedete noi nostro lo facciamo, il resto della stampa non lo so. Arrivando anche messaggi pregandoci di ricordare il 20 luglio, che non è solo l'anniversario dell'allunaggio di Armstrong, ma è anche questo fisco lunare, caro Oscar, che hai appena descritto. Va bene, va bene, va bene, torniamo tra un minuto. Della belva. Ed eccoci qui, tornati in diretta, cari compari. Carlo Alberto, Carnevale Maffè, c'è anche Mario, dico bene. Mario, ci sei? Certo. Ma Mario, sai, Mario, io lo so che resta freddo quando io esagero, secondo lui, su questi toni. Perché Mario appartiene a un altro, all'altra metà della mela dei contribuenti, a quelli del sostituto. Nel senso, di quelli che pagano poco. No, io lo so che è così, però guarda Mario, ti garantisco, cioè, ci sono delle cose di fronte alle quali ogni volta io dico, no, vabbè, abbiamo toccato il fondo, e ogni volta io rimango senza parole di fronte all'emanazione di questi atti, che sono quelli che poi bisogna ottemperare, perché sono la fonte del diritto primario, sono le circolari nel nostro paese dal punto di vista tributario. Però io mi scaldo perché è una questione di principio, eppure la rassegnazione oramai impera, domina, ed è quella la cosa che più mi colpisce. Comunque, cari amici, a proposito di rassegnazione, ma lì mestiere ben fatto, vediamo che cosa sta succedendo. Quindi cambiamo pagina, andiamo nel credito, nel risparmio, nella vicenda delle banche e così via. Questa settimana ha fatto qualche passo in avanti, caro Carlo Alberto e caro Mario, il recepimento formale della MiFID, che entra in vigore l'anno prossimo ed è uno degli strumenti destinato a cambiare ulteriormente il quadro di fondo. È una riforma fondamentale dopo quello che è successo con le popolari venete, con le quattro banche, con le nostre piccole casse di risparmio che stanno vendendo azioni e obbligazioni ai soci senza controllo. È veramente un passo importante. Peccato che non è avanti, caro Oscar, è un passo indietro, è un passo imbarazzante, gravissimo, vista l'importanza del risparmio nella cultura e nel futuro degli italiani. E allora, proprio per questo, abbiamo deciso di conferire un premio per quello che a nostro giudizio è l'articolo che meglio, rispetto al silenzio generale, cari colleghi dell'informazione, invece ha rotto questo silenzio dando precisamente conto e informando, e è avvenuto ancora una volta sulla stampa di Torino, voglio dirlo, certo. Perché tra l'informazione generalista, la stampa, anche come vedete, oltre alla vicenda Paolucci, solidarietà, solidarietà, solidarietà, abbiamo gli occhi aperti, ma anche su questa vicenda del dar conto ai lettori di cosa avviene in Parlamento sulla garanzia e diritti dei risparmiatori, è stata la stampa a pubblicare un bell'articolo di una persona che professionalmente si occupa di questi temi, perché è responsabile di strategia di investimento di soldi expert SCF, che ha scritto una cosa per la quale gli abbiamo detto vieni qua e spieghiamola anche agli ascoltatori di Conti da Belva. Salvatore Graziano, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Allora, questo recepimento c'ha almeno due punti, soffermiamoci su questi perché sono i più importanti, però, che sono ai nostri occhi ci lasciano tra il perplesso e lo scandalizzato, perché il primo riguarda la consulenza finanziaria indipendente e il secondo proprio i titoli liquidi, esatto, delle banchette, che dovrebbero essere una cosa su cui c'è l'allarme rosso. E invece, ma cominciamo con la consulenza, con la consulenza. Però Graziano, prima spieghiamo cos'è la MiFID 2, perché non tutti lo sanno, molto rapidamente. Allora, la MiFID 2 è una normativa, diciamo, emanata come direttiva a livello europeo che i vari Stati membri devono recepire. In realtà dovevano recepire dal 1 gennaio 2017, ma c'è stato già uno slittamento perché il sistema bancario delle società del settore ha chiesto uno slittamento, quindi entrerà ufficialmente in vigore il 3 gennaio 2018. I caposaldi di questa normativa dovrebbero essere proprio protezione maggiore dei risparmiatori, maggiore trasparenza nei costi e soprattutto anche commissioni di remunerazione per l'intermediario più difficili da giustificare senza un rendimento adeguato per il risparmiatore, almeno questo dovrebbe essere lo spirito originario proprio di maggiore trasparenza e tutela del risparmio. Beh, più che uno spirito, è quanto è stato implementato nel resto d'Europa, per esempio in Inghilterra già dal 2013, quindi che cosa succede in Italia oltre allo spirito? È che la lettera della legge invece va in una direzione diversa, dico bene? Sì, in Italia c'è un luogo fantastico scritto in cui si può trasformare il piombo in oro e l'oro in piombo ed è il Parlamento, sia quello europeo dove in realtà le lobby bancarie hanno molto spinto perché il modello inglese non passasse, adesso vedremo brevemente qual è il modello inglese, e ora che c'è l'atto di recepimento della normativa in Italia, le commissioni parlamentari, finanza, Camera e Senato, diamo anche dei nomi dei responsabili, dei presidenti, Maurizio Bernardo nella Camera Area Popolare e per il Senato il presidente Mauro Maria Marino del Partito Democratico, hanno recepito tutta una serie di indicazioni e osservazioni che sembrano fatte apposta per dare un bel assist di nuovo al sistema bancario. Cosa era successo in Inghilterra, in Gran Bretagna? Già nel 2007 in Gran Bretagna erano state fatte diverse indagini che dimostravano che i risparmiatori erano molto poco preparati a affrontare i mercati. Fu avviato un discorso di maggiore educazione e sensibilizzazione finanziaria e nel 2013 con la cosiddetta RDR, Retail Distribution Review, si scelse un modello molto netto. I consumatori dovevano essere in grado di scegliere i servizi al miglior costo e fu deciso che i cosiddetti distributori collocatori, ovvero quello che in Italia chiamiamo i promotori finanziari, non potevano più recepire commissioni di incentivo o retrocessioni. Era stato scelto il modello della cosiddetta consulenza Fiolli. Il cliente paga la retrocessione e le banche non prendono sopra banco o sotto banco incentivi. Fiolli vuol dire che è il cliente, cioè esatto, l'investitore che paga la consulenza come paga un medico per ricevere dei consigli. Il medico non riceve la retrocessione da parte del farmacista della casa farmaceutica, giusto per chiarire il concetto. Cioè diventa paghi un servizio dai costi trasparenti. Esattamente, non può annegare il costo della sua remunerazione dentro al servizio generale. Qui il principio della trasparenza e della affiliation al mercato della domanda e non quello dell'offerta era un principio fondamentale della riforma inglese. Motivo per il quale si direbbe che in coerenza il modello del consulente finanziario indipendente, non appartenente a rete eccetera, dovrebbe essere finalmente considerato importante, prioritario, e invece? Cioè, quantomeno invece legittimo, adesso prioritario vediamo, almeno legittimo, dico bene. Sì, invece in Italia, come forse dicono anche economisti illustri come Akerlof e Schiller, ci prendono per fessi, viviamo proprio nell'economia della manipolazione e dell'inganno, e il modello che è stato scelto è stato un modello misto, in cui continuerà a esistere sia la consulenza dipendente, quindi in cui banche, collocatori e promotori continueranno a ricevere retrocessioni, sia la consulenza indipendente, ma allo stesso tempo nella normativa, per come adesso il Parlamento, le due commissioni l'hanno rispedito questo testo al governo, hanno introdotto alcune pillole avvelenate, proprio paradossalmente nei confronti della consulenza indipendente. Ma è ovvio. Ma come si permettono questi indipendenti? Sono firmate dalle reti quegli emendamenti. Vediamo che limiti sono stati ipotizzati in commissione. Hanno messo un limite molto, molto interessante. Praticamente il consulente finanziario indipendente o le società che esercitano solo consulenze finanziarie indipendenti pura e quindi diciamo decidono di offrire solo ed esclusivamente questo modello di consulenza, non potranno uscire dalla propria sede nei confronti dell'offerta. Cioè, ovvero, sono agli arresti domiciliari, è questo che stai dicendo? Sono agli arresti domiciliari. Devono stare chiusi in ufficio, perché se vanno dai clienti devono portare fisicamente il cliente poi nell'ufficio a firmare con il sangue, di come un pezzo di carta, mi raccomando, nel 2017 sono cose importanti, no? Quindi, sì, viviamo nell'epoca del cosiddetto fintech, tutte queste cose no, qua il cliente deve praticamente andare nell'ufficio del cliente, il cliente non deve muoversi e la giustificazione data nel testo che le commissioni hanno mandato al governo è perché in questo modo l'organismo di consulenza più facilmente, se deve fare dei controlli, è sicura che se suona il campanello dall'altra parte qualcuno risponderà. siamo all'economia del campanello. Facci capire, Gaziano, questo che cosa vuol dire? Che di fatto i consulenti indipendenti possono muoversi al massimo al pianerottolo, dico bene. Cioè il mercato dell'indipendenza è un mercato da pianerottolo. Quando stiamo assistendo alla nascita, alla prepotente crescita del robotic advisor, delle tecnologie di diciamo intelligenza artificiale applicate, degli ETF, noi stiamo parlando qui in Italia, diversamente da tutto il resto d'Europa, perché mi risulta, Gaziano, che in nessun'altra parte d'Europa si è ipotizzato un limite di questo genere, no, corretto? No, peraltro lo stesso MEF, nel parere che aveva dato al governo, aveva proprio previsto e preventivamente espresso la possibilità per i consulenti finanziari indipendenti di fare offerta fuori sede. E poi è partito un fuoco di sbarramento tipico che c'è in Italia, ne avete parlato in tantissime puntate, da Uber a Flixbus, perché si è iniziato a dire che questo avrebbe comportato e comporterebbe un mercato, addirittura un far west. Ricordiamo peraltro che i consulenti finanziari indipendenti non possono raccogliere soldi dai clienti, non possono detenere soldi né possono ricevere retrocessioni, quindi non c'è in realtà il rischio che il cliente in questo modo venga più facilmente preso in giro ancora una volta, anzi il consulente indipendente viene a netta separazione, il cliente i soldi sa dove sono depositati e può guardare ogni giorno il proprio conto. Cari ascoltatori, ripetiamo, partiti del presidente delle commissioni Alleanza Popolare, quello che si sta disfacendo qui attorno da Berlusconi, e il PD, le orecchie le hanno solo per le reti bancarie, sì, sì. Ecco, non per i clienti e per i risparmiatori, perché poi quello che conta sono i fatti, non le chiacchiere che pronunciano. E sui titoli liquidi delle banchette, ecco, invece... parliamo anche di quello, perché c'è l'altra operazioncina qua. Dopo anni in cui scopriamo, per esempio, multa di Consob, 630.000 euro a Cassa Cesena, perché rispettando ovviamente rigorosamente i vincoli MIFID che non volevano essere firmati, ha scoperto che oltre il 40% del portafoglio degli strumenti finanziari detenuti dalla clientela retail della banca era in obbligazioni e azioni della stessa Cassa di Risparmio. Non male come diversificazione, Gaziano. E allora, come nuovo muro di garanzia, cosa erige il Parlamento? Sentiamo. Allora, qui anche qui siamo un altro capolavoro. Qua è indubbio che per chi si è perso qualche puntata, stiamo parlando, stiamo toccando interessi molto sensibili. In Italia ogni anno altre società di consulenza hanno stimato in 23.000 miliardi le commissioni, solo che gira intorno alle società di gestione, quindi bloccare 23 miliardi, no, 23 non, miliardi dai. Non parlare in 23... lire, che poi la gente poi pensa, sì, che siamo usciti nel weekend, no? No, siamo, vero, ancora nell'euro, miliardi, 23 miliardi. Miliardi di euro ogni anno che girano, quindi questo è per le banche è proprio andare a toccare una delle poche voci in cui è indubbio che vi è in questo momento. Mi piacerebbe che non intercettassero e non le perquisizioni fossero fatte sui telefonini in questo momento e le email di quelli che hanno contribuito a questo testo della Commissione, per andare a vedere dov'è in realtà in Italia il conflitto di interessi. Parliamo appunto delle banche di credito cooperativo, le casse rurali, dove anche qui il testo denunciato, licenziato della Camera, ha messo fra le condizioni la possibilità per le banche credito cooperativo, da una parte, di non adeguarsi immediatamente alla MIFID, perché dice che è troppo complicato, è troppo complicata per i loro clienti, su, ecco, i costi per i propri clienti, dovrebbero richiamarli tutti, chiedere sia mai che l'educazione finanziaria sia una cosa impegnativa, ma va, lasciamoli nell'ignoranza. Quindi primo, esenzione. Secondo, quindi esenzione. Secondo, anche qui è stato chiesto che praticamente non sia necessario per le banche di credito cooperativo, sia consentito di poter collocare le proprie azioni ai propri correntisti senza rispettare la MIFID 2, ma con una regolamentazione di rango secondario. Che vuol dire? Studiamo il regolamento fra noi, lo presentiamo. No, ce lo scriviamo, ce lo scriviamo. Esatto. Però ce lo facciamo noi, tranquilli, perché è poca cosa, ed è stato spiegato alle Camere di fronte a questi parlamentari molto preparati che hanno recepito tutto, che in realtà si tratta di piccoli risparmiatori, piccolo, di modica quantità, mediamente il piccolo azionista del credito cooperativo ha circa poco più di un migliaio di euro investite, quindi è inutile che andiamo a montare. Certo, un po' come la marijuana finanziaria, se ne fumi poca non c'è problema. Spiegato, non sono speculatori, ecco, i nostri azionisti. No, come no, ma mi sembra che questo limite però verrà aumentato, dico bene? Esatto, io quando ho letto questa cosa mi sono ricordato, sono andato sul sito delle banche di credito cooperativo e mi sono andato a rileggere la riforma voluta fortissimamente da un certo Matteo Renzi, che magari voi avete sentito nominare, e che nella legge 49/2016 ha proprio previsto che dovrà essere entro il 2021 coinvolti un maggior numero di soci dentro, certo, le banche di credito cooperativo, addirittura da un minimo di 200 fino a un minimo di 500, e il capitale massimo da detenibile da ciascun risparmiatore potrà passare da 50.000 fino a 100.000 euro. Quindi 100.000 euro in esenzione MIFID non sono proprio male, dico bene, posto che magari rappresenta, dicevamo prima, magari il 40% del portafoglio, è un dato accertato da Consob. No, sono numeri, Oscar, che come ti dica? Cioè, qui nessuno vuole colpevolizzare. La fiducia verso gli amministratori di questi presidi di trasparenza, di solidità del sistema bancario e dell'impiego territoriale delle risorse, che sono le piccole banchette italiane. Ma perché vi devo richiamare? Hanno una loro ragione d'essere qui, però è che tutti devono avere le stesse regole, non è che io, siccome sono piccolo, posso fare quel cacchio che mi pare, caro Oscar. Ma neanche per idea, perché tutti devono stare le stesse comunque regole. Graziano, quindi cosa succede di fatto? Che l'indipendenza viene penalizzata, che non può uscire dall'ufficio. Esatto. Cioè, siamo alla consulenza da pianerottolo, ci vediamo sulle scale. No, le scale sono fuori ufficio. Ma senti, ma la hall del condominio non va bene, neanche quella. Non è ammessa. Tipo il cortile, no, neanche quella. E poi belle esenzioni per una bella parte del bella sensazione. Beh, sai, il movimento cooperativo che avrà bisogno di una sferzata e di ripensarsi nel suo futuro, non aveva bisogno di questi regali meschini dal mio punto di vista. È un'occasione importante quella della riforma, andrà affrontata con ben altri criteri che sono questi. Comunque, questo è ciò che conta, cari ascoltatori, cioè la sostanza delle regole. Poi invece vi riserveranno, nei pochi mesi peraltro prima delle elezioni della commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche, fuffa chiacchiere e distintivo. Quello che conta è che, mi dispiace, nel silenzio generale dell'informazione, tranne una eccezione, quella dell'articolo di Graziano questa settimana sulla Stampa, due eccezioni. Per il resto, quello che conta sono le regole, e sulle regole i partiti si comportano, cari ascoltatori, dicendo: vabbè, non esageriamo con i diritti del risparmiatore, va, che noi dobbiamo sostenere l'industria, per così dire. Specialmente quella gestita dagli amici, governata dai delegati del governo. Grazie a Salvatore Graziano, torniamo tra un minuto. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamo. Della belva. Mario, ci sei, Mario? Certo. Io immagino che il tuo portafoglio si gonfierà a questo punto di titoli liquidi, viste queste belle garanzie. No, no, già. Ma guarda, allora, io, a me viene voglia veramente di dare in escandescenze e di fare quello che fai tu quando parli di fisco di fronte a cose di questo tipo. Intanto i miei complimenti a Salvatore Graziano, perché sì, è veramente servizio pubblico. Esatto. E non è da tutti. È una esposizione estremamente pulita, competente e divulgativa. Poi vorrei dire che, siccome nella settimana appena trascorsa è stato firmata la creazione di questa commissione per l'educazione finanziaria. Esatto. Volevo giusto citare questa, caro Mario. Infatti, notavo che la stavi citando e rilancerei il concetto. Educazione finanziaria, che potrebbe essere una grande cosa, ma che, ascoltate le mie parole, perché io notoriamente non so un cazzo, si risolverà in una sorta di incontro con le camarille delle cosiddette sedicenti associazioni dei consumatori, finirà a tarallucci e vino, e di educazione finanziaria non ci sarà una cippa. Anche perché, visto che le BCC, bene o male, devono ricapitalizzarsi, perché la situazione è piuttosto grama in media per quel sistema, e lo dobbiamo dire e continuare a dirlo, e sfido chiunque a confutare questa affermazione, perché i ratio sono lì da vedere. Poi alla fine non diciamo, allora l'azionista della BCC che potrà sottoscrivere un aumento di capitale senza essere sottoposto a test rigorosi, si fa per dire, come quelli del contesto MIFID, gli verrà detto che l'azione non è capitale di rischio, esatto, ma è una sorta di morbida, sì, e calda coperta di Linus, esatto, alla quale lui può abbracciarsi. È proprio così. Sarà un investimento sicuro. Dopodiché, quando succederanno i casini, giustamente gli azionisti diranno: ma come? Mi avevano detto che era un investimento sicuro, che erano azioni, ma che però non erano azioni. Com'è sta cosa? Esatto. E chiederemo il ristoro con soldi del sistema o soldi dei contribuenti. Allora, io lì ti volevo portare, perché questa settimana due altri flash, perché poi andiamo all'avvocato Cecchinato, ma due altre vicende di quelle che meriterebbero da sole due ore. Primo, il ristoro. Il famoso ristoro. Si sveglia. È un paese di ristoratori. Esce dal permafrost in cui l'avevano surgelato per decine di migliaia di anni come un mammut, il presidente del fondo di tutela dei depositi grandissimo bancari. Maccarone. Il Maccarone ci ha sorpresi questa settimana, perché ha scritto un vibrante articolo, caro Mario, caro, ecco, caro Alberto, vibrante, precisissimo, chirurgico, in cui il presidente, pensate, di una roba che si chiama Fondo Tutela Depositi, finalmente si rende conto dopo un po' di anni che in realtà viene utilizzato per ristorare i subordinati. Questa cosa che De Plano doveva ribadisce che questo è illegale, illegittimo. Contro i principi della legge italiana e della legge europea, e che lui quel mestiere lì non lo vuole fare, giustamente. Pazzesco, Maccarone. Ma grazie Maccarone. Grande caldo, ragazzi. Ma il grande caldo, vedete, ha degli effetti. si scioglie il permafrost. È l'equivalente del distacco dall'Artico di quel grande iceberg. Maccarone, torna con noi. Mostraci che inizia a usare il cervello, finalmente. Fantastico. Questa notizia mi ha riempito di gioia, devo dirvi la verità. Seconda, però, accompagnata la liquidazione di questi, cari amici. Ah, una prece in memoria del mito Atlante, di questo titano che si è fatto il carico del cari peso. Cari ascoltatori, chi aveva ragione? Una lacrimuccia. Chi ve l'ha detto dal primo momento, ma naturalmente è passato come uno torbido provocatore antisistema, come qui stava questi microfoni, gli amici di Firenze. Ricordiamo che Atlante ha investito 3,6 miliardi esatto, in azioni delle Venete, che sono state azzerate dalla liquidazione. Ricordiamo che Atlante è stato finanziato da tante compagnie assicurative usando non i fondi propri, ma addirittura quelli delle gestioni separate. Quindi non lo sanno ancora, ma i loro clienti vedranno nel bilancio delle gestioni separate, alla fine, se mai lo vedranno, un bel buco di qualche miliardo, perché questi signori hanno pensato di fare un'iniziativa nazionale usando i soldi dei loro clienti. Ma che furbi, ma che bravi, Ma anche Poste Vita? Anche Poste Vita, ma anche Unipol, ma anche... L'hanno detto sui giornali. Questo . Per dire che questa settimana ha dato delle soddisfazioni tardive, non sono soddisfazioni, con amarezza che noi leggiamo queste cose e ne prendiamo atto. Però che Maccarone finalmente capisca che i fondi di tutela dei depositi non dovrebbero servire a ciò a cui però li hanno fatti servire, bene. La cosa di Atlante invece è il classico sistema generatore di illusioni per non farvi capire come stanno le cose. E mi dispiace con fior di privati che hanno dato retta, sia pure spesso torto collo, perché si capiva che molti dei privati che hanno partecipato ai due round di finanziamento sapevano perfettamente che quello che era stato annunciato era solo per prendere a calci la lattina, come giustamente spesso scrive su fastidio.net il nostro Mario Seminerio. Allora, io adesso praticamamente saluto solo e gli do un primo minuto all'avvocato Piero Cecchinato, che però ci portiamo dopo le 11, perché è un supplemento di quello che la scorsa settimana ha suscitato grande interesse da parte dei nostri ascoltatori che hanno cause impugnative con le due banche venete. Avvocato Cecchinato, buongiorno e grazie di essere con noi, ma resta con noi anche dopo GR. Come vanno le cose? Buongiorno a tutti. Bene, diciamo bene, dobbiamo farle andare bene. Ma questa settimana sono giunte voci di chi inizia a organizzare proteste nelle piazze venete, ma sono vere o no? Beh, in realtà le proteste si moltiplicano, hanno avuto una certa risonanza quelle a Vicenza, in un comune in provincia di Vicenza che è Schio, sì, ho visto la gente per strada. Sì, il traffico è stato paralizzato e poi dall'altra parte Treviso e il comune della provincia di Vicenza. Mi corregga se sbaglio, io intanto do l'annuncio di come col giornale radio riprendo con lei. almeno su 2-3 punti diamo delle pillole a chi è in ascolto, vediamo se qualcuno poi ha accolto anche le telefonate. Perché primo, ripartiamo dalla questione l'insinuazione al passivo, perché ancora non è chiaro che cosa. Poi si è aperto un nuovo capitolo, quello dell'eventuale responsabilità delle società di revisione, e anche qui può essere interessante spiegare se si può iniziare a mettere in atto qualche cosa oppure no. Insomma, ne parliamo tra pochissimo, ma intanto c'è il giornale radio e l'avvocato Piero Cecchinato è insieme a qualche telefonata, vediamo se vi dà risposta. A tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Allora, eccoci qua, tornati dopo Generale Radio con il nostro avvocato Piero Cecchinato, esperto di diritto bancario, per vedere cosa sobbolle nell'area delle impugnative dei azionisti obbligazionisti delle due. Bene, cominciamo con due telefonate, l'avvocato Cecchinato poi è con noi. Cominciamo con Mirella che ci chiama da Chiavari. Mirella, prego. Ma io non volevo essere in diretta, naturalmente. Ah, ecco. Invece lei è in diretta, allora, Mirella. Se, un momento, no, questo... volevo che mi chiamassi privatamente. Allora, Mirella, visto che io il bello della diretta è invece questo, prendo atto, per correttezza, perché una volta che esordisce così non posso che dire errore nostro, me ne assumo la responsabilità, poi non è mia responsabilità, ma come in questo momento sono in diretta io, quindi aspetti, per Radio 24 me la prendo io. Allora, io prendo nota, faccio prendere nota dal centenario del suo numero, del motivo per cui chiamava, e ci sentiamo, le do la mail, ci sentiamo, ci confrontiamo, non si preoccupi, la sua privacy non è violata, non fa parte del nostro codice di lavoro. Quindi intanto mi prendo i suoi estremi e le mando una mail, così mi può rispondere Mirella, così non si preoccupi, non è accaduto nulla. Invece Andrea da Roma, cosa ci voleva dire Andrea? Innanzitutto domanda preliminare, lei sa che è in diretta Andrea? Sì. Sì, lo so. Ecco. Vada! Allora, saluti all'Allegra Brigata. Eccoci. Io sono un socio della Banca di Credito Cooperativo di Roma, la più grande d'Italia. Sì. E pare pure una delle più stane banche d'Italia, così almeno questo pare. Pare, va bene. Va bene. E non ho di cui lamentarmi. La quota che io ho dovuto acquisire, e oltretutto ho dovuto avere anche lo status di coltivatore, quindi... ho dovuto acquistare un piccolo pezzo di terra a Noccioleto, perché sennò non avrei avuto lo status, vi parlo di parecchi anni fa, adesso io ho 50 anni, e non ho di cui lamentarmi, nel senso che ho pagato questo milione di lire all'epoca, poi in tempi recenti loro hanno fatto un piccolo aumento di capitale, hanno chiesto ai soci di partecipare a un piccolo aumento di capitale, lo abbiamo fatto tutti, l'ha fatto mio padre che non c'è più, lo ha fatto altre persone, diciamo, parenti. Sì. Dove siamo, diciamo, tutti soci, e non abbiamo motivi di lamentarci, se non forse che la Banca di Credito Cooperativo fa troppa beneficenza ad enti quali sindacati e altre cose di questo tipo. Io volevo sapere il vostro parere, perché voi siete molto critici su questa cosa. Noi siamo, aspetti, non ho dato molti soldi, glielo dico due parole. Allora, lei sicuramente è socio di una banca che fa parte del segmento, infatti non a caso candidata regolarmente a ruoli espansivi all'interno del sistema e così via, e la cui stato patrimoniale, insomma, e la cui gestione non la rende significativamente rappresentativa del sistema. Questo è il punto. Noi abbiamo a cuore, invece, quando facciamo interventi generali di critica su i coefficienti patrimoniali, il totale dell'esposizione al rischio con i crediti deteriorati, il fatto che non ci sono le economie di scala per gestioni efficienti, non ci sono a livello territoriale, c'è una concentrazione di rischi per classi di prenditori. Oltre 100 banche di credito cooperativo con un Texas ratio, cioè un rapporto fra diciamo crediti di sofferenza e capitale proprio oltre il 100%, di cui non fa parte Banca di Cassa di Roma. Noi da sempre propugniamo proprio per questo, ondate di fusioni, vorremmo che la scadenza a fine anno nel sistema del credito cooperativo, cioè la scadenza nella quale si finalmente scriveranno i contratti di coesione tra le holding tra le capo holding e le confederate, per così dire, siano penetranti, cioè si confermino e si conferiscano alle holding poteri di gestione diretta dei rischi, e quindi più gestionale è la gestione verticale, meglio è. Ecco, lei ci chiede invece per la sua, ecco, ma la sua non è esemplificativa di questi problemi, e quindi io posso esprimerle bravo chi in famiglia ha visto lontano, ma ha visto lontano più per fortuna, mi scusi, che perché era un bravo comparatore tra prestazioni di banche locali. Ma chi vi nega che esistano grandi problemi nel sistema del credito cooperativo italiano e nega invece una realtà, e la nega perché molti sperano il contrario di quello che diciamo noi, cioè che resti una gestione in mano a cupolette opache che vanno a braccetto coi poteri locali, Carlo Alberto. Più o meno questo è il fatto. Torniamo che è il contrario però del principio del banking cooperativo. Io mi aspetto invece, devo dire, nel medio termine in Europa un polo europeo del credito cooperativo forte, trasparente, che salvi la valenza di fondo del credito cooperativo, che rimane valida. Invece non è così. Torniamo a un po' di istruzioni per l'uso ai veniti dell'avvocato Cecchinato. Esatto. Lo chiamiamo, poi lo interrompiamo, lo chiama la radio un po' così. Allora, ma i clienti suoi sono in buone mani? Sì. No, se posso in coda all'intervento dell'ascoltatore, che tra l'altro la BCC di Roma ha comprato la nostra BCC padovana, però questo vale per tutti, cioè i nostri ascoltatori che sono soci devono essere voce critica in sede d'assemblea, cioè i soci hanno degli strumenti, devono fare pressione nei confronti del management, ci vuole, devono essere voce critica. Questo è veramente un invito che io faccio anche ai miei clienti, che mi fanno più o meno la stessa domanda nel momento in cui mi presento una situazione, sono diventati soci di banche che in questo momento sembrano stare bene, e io dico questo: vi dovete organizzare, vi dovete far aiutare. La legge quadro sulla revisione dei conti del 2010 ha introdotto un principio bellissimo che si chiama quello dello scetticismo professionale. Bravissimo, cioè, bravissimo. Il socio azionista deve essere scettico. E gli strumenti ci sono, in assemblea va fatta pressione costante. I bilanci dicono le cose, bisogna saperli leggere, ci si può far aiutare dai professionisti. Però questo è l'unico strumento che... Spesso i bilanci non dicono le cose. Esatto. No, però, spesso i bilanci dicono ma le cose. Ribadisca questo principio, il banking non si basa sulla fiducia, si basa sul controllo, sulla governance e sullo scetticismo. La fiducia è il risultato della verifica, non è la condizione ex ante. Scetticismo professionale. Poi è vero, i bilanci assolutamente, noi ve lo sappiamo, stiamo parlando di questo, però a volte voglio dire, i bilanci danno degli spunti su cui cercare, su cui indagare, però ovvio che ci sono competenze tecniche, però i soci secondo me devono organizzarsi assolutamente. Senta, ma chi si ritiene truffato dalle banche venete ha, secondo lei, davvero qualche chance per intentare azioni anche nei confronti della società di revisione? Allora, questa è una notizia a cui è stato dato un certo risalto l'altro ieri dai giornali locali. I giornali locali hanno detto che sono in arrivo una sequela di denunce penali e di azioni civili nei confronti di PricewaterhouseCoopers e di KPMG, che erano le due società di revisione delle due banche venete. Allora, devo dire che questo, gli addetti ai lavori è un po' che ne parlano. Nei corridoi del tribunale effettivamente non ci confrontiamo un po' su questo, perché si tratterebbe di un'azione che di per sé è un po' più complessa, un po' più difficile da istruire rispetto a quella con cui si impugni quello che noi chiamiamo mis-selling, quindi la violazione delle regole di condotta nel momento in cui si è negoziata l'azione. Però è evidente che nel momento in cui si riducono le possibilità di ristoro per la situazione in cui si trovano oggi le due venete, è ovvio che questo diventa un filone praticabile. Secondo me è un filone interessante. Molto interessante. C'è una sentenza bellissima del Tribunale di Milano del 4 novembre 2008, collegio presieduto tra l'altro dal povero Fernando Ciampi, il giudice che è stato ucciso nel Tribunale di Milano nel 2015. Una sentenza bellissima, motivata benissimo, che secondo me è proprio un caso di scuola, illustra molto bene quali sono i principi a cui ci si deve attenere in una causa di questo genere. In quel caso lì... E apre un'autostrada esattamente con la sentenza, almeno mi pare, un'autostrada forse è troppo, ma insomma pone dei... Una finestra, ecco, diciamo. Sì, apre una finestra in termini di diritto, ma è molto ben... È molto ben motivata sul nesso di causa, sul danno risarcibile, e in quel caso lì venne condannata It Audit, che era la società di revisione del gruppo Parmalat. Devo dire che però in quel caso... il giudice riuscì ad arrivare a una sentenza di condanna attraverso una serie di documenti che in questo momento forse, di cui forse facciamo ancora difetto, nel senso che il documento principale che venne preso in considerazione fu una perizia del consulente della procura, perizia a cui poi venne dato un certo risalto, costituendosi nel procedimento penale se ne poté acquisire copia. Un altro documento che venne utilizzato dalla sentenza per motivare la condanna fu la relazione del commissario Bondi. Noi vediamo adesso i commissari che relazione ci faranno sulle cause del dissesto. È ovvio che nel nostro caso però degli indici emergono in maniera chiara di quello che è stato, emergono in maniera chiara dal prospetto informativo dell'aumento di capitale della primavera del 2016, esatto. Il famoso prospetto informativo di 1000 pagine dove è scritto molto di quello che non era scritto nei bilanci, forse per stare a quello che dicevamo prima, e cominciano a emergere. Devo dire che anche le parole di Guzzetti a maggio, che iniziò a dire ma quegli aumenti di capitale qualcuno li ha autorizzati, però, perché poi è su quello che poi Atlante ha perso i soldi, tra l'altro, ed è stata azzerata. Ma invece, avvocato, cosa si può fare sul fatto che in realtà il decreto, sì, è uscito il decreto del MEF, la bozza del decreto del MEF in realtà è retrodatata al 26, il giorno stesso del decreto legge che rende esecutiva la gestione commissariale, però chi volesse insinuarsi al passivo per il momento non può ancora fare nulla. Allora, quel decreto lì sono i decreti ministeriali del MEF che in concreto dispongono la liquidazione, sono dei decreti di 2 paginette che non sono ancora pubblicati, però, quindi diciamo chi riesce ad acquisirli acquisisce perché le banche le depositano nei procedimenti in causa per dimostrare al giudice che effettivamente si è integrata la causa, effettivamente c'è la liquidazione, c'è la liquidazione, però non sono ancora efficaci nei confronti dei pezzi, perché abbiamo già avuto occasione di dire che il termine per l'insinuazione al passivo, cioè per trasferire la propria pretesa di credito nei confronti della società in liquidazione, è di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, di questi decreti, in pubblicazione che ancora non è intervenuta. Non è niente, ma in concreto, quando interverrà, che cosa si dovrà fare? Entro questo termine si dovrà inviare una lettera raccomandata nella quale si dovrà chiedere il riconoscimento del proprio credito risarcitorio per la violazione da parte della banca regole di condotta, e si dovranno allegare tutte le pezze giustificative. In concreto, chi ha già fatto una causa avrà il lavoro abbastanza agevolato, perché trasferirà il contenuto di quella causa, anche compreso il contenuto documentale, lo trasferirà in questa richiesta rivolta ai commissari. Siccome però in concreto un accertamento giudiziale di quel diritto risarcitorio ancora non sta intervenuto, eccetto pochi casi ancora non è intervenuto, in concreto il commissario dovrà rigettare quella richiesta in prima battuta. Ciò costringerà l'azionista a un'azione che si chiama di opposizione allo stato passivo. Esatto. In concreto costringerà l'azionista a ripartire da zero stessa causa che aveva già proposto. Esattamente. Questo è quello che succede. Questo bisogna che sia chiaro, ecco, a chi ci ascolta. Bisogna essere chiari su questo, perché è uno dei risultati di aver scelto la strada della liquidazione riformata dal DL99. La liquidazione riscritta, insomma, secondo un codice, diciamo, la cui emanazione è direttamente uscita dall'ufficio legale di Banca Intesa. Grazie, avvocato Cicchinato, ma si tenga pronto anche per sabato prossimo. Noi torniamo tra un minuto. Della belva. Ed eccoci qui, tornati in diretta, e diamo un altro approfondimento, cambiando però pagina, cioè a proposito degli famosi inferni fiscali, delle norme inattuabili che arrivano poche ore prima di scadenze improrogabili, oltre le quali scattano sanzioni magari modeste, magari poi da mettere in regola entro un mese, e magari a quel punto il commercialista ricomincia da capo, riscrive tutto e dice sì, ti faccio pagare uno 0,4 in più, e poi però ecco che quel giorno stesso di nuovo l'amministrazione tributaria cambia idea e il cliente va dal commercialista e dice ma come, mi hai fatto pure pagare lo 0,4 in più, e adesso si scopre che c'è un'ulteriore finestra. Ecco, qualcosa di simile ma con effetti ben concentrati è quella che avviene nella nuova forma di ottemperanza del dovere fiscale da parte degli agenti immobiliari e degli host nel settore degli affitti turistici brevi. E abbiamo con noi quindi il presidente nazionale della Federazione Italiana di Agenti Immobiliari Professionali, Paolo Righi, perché questa vicenda, nata nel decreto manovrina con la politica che si è gonfiato le gote perché era la tassa contro Airbnb, la multinazionale, solito corredo di luoghi comuni sulla multinazionale, eccetera, eccetera. Abbiamo detto subito la politica, nella fattispecie, loro le bocce, dicono, guarda, lo sa meglio di noi che non ha stabile organizzazione italiana. Se lo trasformate in sostituto d'imposta, questa roba significherà che i sostituti d'imposta diventano gli host e gli intermediari italiani. Ma no, deve essere Airbnb. Puntualmente è quello che è avvenuto, perché poi l'ignoranza elementare provoca queste condizioni. La realtà prevale sugli annunci della politica, col risultato che questa norma, da subito esecutiva, ha creato un fracco di guai, ma un fracco di guai non di gente che non la vuole pagare, perché tanto siamo lì, ha deciso lo Stato sovrano, bisogna obbedire, ma il problema è che tecnicamente la vuole pagare, ma deve sapere come farla. Allora, Presidente Righi, grazie di aver accolto in questo sabato mattina l'appello di spiegarci un pochino come state messi voi, come la pensate, cosa pensano i vostri associati. Grazie a voi e buongiorno a tutti i telespettatori. Ma intanto lei ha detto benissimo, è stata varata la cosiddetta web tax, che non è una web tax, esatto. Quindi la tassa Airbnb è una bufala, perché Airbnb non pagherà un centesimo di tasse. Già. Questa norma cosa dice? Dice che i redditi da locazione provenienti dalle locazioni brevi, diciamo, che già i proprietari di casa dovevano pagare, certo, devono essere riscossi da chi? Da queste multinazionali, diciamo, e dagli agenti immobiliari italiani. E noi abbiamo detto, guardate, non siamo sostituti d'imposta, le agenzie immobiliari non l'abbiamo mai fatto, le agenzie immobiliari hanno 2.8 addetti dedicati principalmente alla vendita e all'affitto della locazione degli immobili, e fanno tutt'altro, quindi una materia noi sconosciuta. Avevamo chiesto già in commissione bilancio una proroga di 90 giorni per poter, da buoni cittadini e operatori, adempiere alla norma, ma non ci è stata concessa. Giovedì 14 è uscita questo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che ci imponeva di ritirare e di trattenere i soldi ai nostri clienti, quindi immaginatevi voi clienti a cui noi dovevamo dire ti trattengo i soldi su un provvedimento che deve ancora essere emanato. No, una cosa che non ha tecnicamente... No, viene da ridere, invece è vera, questa è la tragedia, è che oramai noi stessi ne parliamo come se dicessimo ma sai, 5 minuti fa ero a camminare sulla luna, e si ride tra amici al bar, e invece è vero. Purtroppo è l'amara realtà, no? Che o piangi o ridi, noi preferiamo ridere, anche perché diciamo che questa cosa coinvolge 20.000 professionisti italiani che, ripeto, non hanno mai fatto il sostituto d'imposta, che tra il sabato e la domenica avrebbero dovuto mettere nei nostri uffici qualche contabile, una cosa pazzesca, irrealizzabile. Cosa abbiamo fatto? No, perché noi poi abbiamo detto... Aspetti, però, perché questo non lo sa chi è a casa, e lei giustamente non vuole perdere tempo in particolari tecnici. Significa non solo dover dalla sera alla mattina, ma testualmente dalla sera alla mattina, dotarsi di quel minimo di cognizione tecnica per capire cosa fare. Capire cosa fare significa che tu hai bisogno di una risorsa specializzata che sappia il tributario perfettamente per tutto ciò a cui devi ottemperare, se prenderla subito dentro o fuori come consulente. Tre, c'è tutta la parte gestionale, certo, cioè devi capire acquisire, devi scrivere il software di notte, eccetera, eccetera. Cioè la piattaforma, con la piattaforma con cui devi intermediare, quali sono le procedure di abilitazione, dove compri o in affitto, in lease, eccetera, il software per gestire questa partita, perché deve essere quello certificato e così via. Cioè non è, cari ascoltatori, una cosa che dice vabbè, dovrete compilare un modulo e prendere dei soldi. No, ecco, proprio no. Ecco, dalla sera alla mattina. Scusi. E per ogni operazione il decreto prevede multe a nostro carico da 200 a 2000 euro per ogni operazione, quindi per ogni contratto breve, che naturalmente può durare dai 2-3 giorni, una settimana. Quindi cosa ha detto la FIAE? Perché ha detto, cari colleghi, a questo punto fate una cosa. Dite ai vostri inquilini, no, quelli che turisti, dite che mandino direttamente i loro soldi al proprietario. E noi, in queste parole lo dico coscientemente, abbiamo aggirato la norma quindi non siamo punibili, proprio perché è impossibile realizzarla. Esatto. Ora, il tema fondamentale è questo. Posto che, non lo so, anche i redditi dell'locazione sono sempre stati e devono, ogni proprietario deve pagare le tasse, quello che ci si chiede è perché. L'impatto sul, è stato fatto un provvedimento in cui l'impatto sulla nostra categoria in termini burocratici, per quello che lei precedentemente ha descritto, è pari a 100 milioni di euro, cioè con la pretesa di far pagare le tasse ad Airbnb, il governo ha sbagliato mira, esatto, ha colpito noi, ci ha caricato di 100 milioni di euro. E qual è il gettito attesa? Aspetti, aspetti. Esatto, è il gettito attesa 83. Capite? Cioè, questo è il miracolo, cari ascoltatori, il miracolo di un legislatore di fisco che, non capendo niente di cose tecniche, proprio lo dico brutalmente, perché tanto il depositario delle cose tecniche è l'Agenzia delle Entrate. Quindi, allora, il politico per ragioni meramente che deve uccidere la multinazionale, il drago della globalizzazione, sì, che ovviamente sceglie i cieli in cui volare, e quindi col cavolo che ti lascia l'ovetto nel territorio nazionale del fisco. Uno, due, siccome però non sa di cosa sta parlando e ignora l'esistenza dei draghi perché scambia, come ovvio, la guerra dei sette regni con la realtà, allora primo colpisce tutt'altro, secondo non ho evidentemente immagini che dice io decreto che tu paghi le tasse, io pento male il portafoglio e finisce lì. A quel punto, dopo aver sbagliato obiettivo, sbaglia i tempi, sbaglia le procedure, e tutto questo per ottenere che l'aggravio ai privati soggetti alla nuova tassa borbonica è maggiore di ciò che lo Stato dovrebbe incassare. Che voto ora, gli vogliamo dare? Ai privati, ripeto, ripetiamo, certo, Airbnb non paga le tasse, semplicemente si limita a fare quando farà da esattore. Ma, e quindi non è una web Presidente tax, Righi, è una bufala. L'interlocutore politico, perché a questo punto sa l'interlocutore, l'agenzia tributaria, l'agenzia delle entrate ha il titolo per dire noi siamo tecnici, andate dai politici a dirvi che l'interlocutore politico, quando avete fatto presente in questa settimana, in questi giorni, questi che sono problemi oggettivi, reali, cioè non sono l'invenzione di una casta che vuole sfuggire ai suoi doveri, sono problemi reali, l'interlocuzione politica come vi ha risposto, Righi? Allora, siamo in due fasi. La prima fase sorridevano perché naturalmente questa politica è assolutamente distante, come voi poi ben rimarcate, dalla realtà delle cose. E quindi sia in audizione, commissione bilancio, sia nelle interlocuzioni precedenti, ha detto le vostre sono tutte balle, andate avanti e così pagate. A questo stato pagate, silenzio. Ora che si sono accorti dell'errore, stanno cercando di porre rimedio. Lo posso dire ufficialmente, ho parlato con l'onorevole Boccia, il presidente della commissione bilancio, gli ho fatto presente queste cose che gli erano completamente sconosciute naturalmente, e insomma, adesso stiamo cercando con il MEF e con il l'Agenzia delle Entrate e con l'onorevole Boccia di cercare di posticipare questi termini, quindi di non rendere punibili eventualmente dei problemi, di differire i termini a dopo l'estate. Perché? Perché poi, fra l'altro, non è che l'hanno fatta questo provvedimento in un momento di bassa stagione, quindi nel pieno in cui tutti i nostri operatori sono impegnati. Però mi faccia dire una cosa, oltre, certo, che la politica, questa è anche un po' uno scandalo dell'associazionismo italiano, perché diamo sempre la colpa alla politica. Bravo, d'accordo. Leggevo l'altro giorno sul giornale una cosa che è grida vendetta, in cui Federalberghi, il commercio, ci dice pagate, fate pagare quegli evasori che non rispettano la legge, quindi rafforzano questa attività. Io, mi chiedo come queste persone, che sono operatori come noi, possano, per un malcelato senso della concorrenza, attaccarci in questo modo. Guardi, io aggiungo ciò che lei, per responsabilità istituzionale e associativa, non può dire. Io apprezzo molto che l'abbia detto, ma io ci metto carico. Sono stati uno degli attori fondamentali di questa vicenda, perché loro hanno agito come un martello pneumatico e i politici questa voce hanno deciso di ascoltare. Cioè, la loro idea è che gli affitti brevi turistici, non parliamo poi della multinazionale famelica, siano comunque una domanda e offerta totalmente uguale a quella alberghiera, e ovviamente però non soggetta alle medesime condizioni. È esattamente la stessa cosa di cui si pensano a proposito di Uber e taxi e così via, quando non è così. Cioè le caratteristiche fondamentali dell'incrocio tra domanda e offerta di questo settore rispetto a quello della ricezione alberghiera sono completamente diverse. Allora, non capire questo da parte del politico è l'ignoranza cognitiva epistemologica iniziale che fonda una serie di errori a catena come quelli che vi abbiamo descritto. Fammi dare un dato industriale: mentre il turismo cresce a livello mondiale di 5-6 punti, l'Italia aveva già un terzo da questo tasso di crescita. Cresce comunque, cresce a un terzo della velocità. Ecco. Quindi vuol dire che il nostro modello ricettivo deve essere adeguato e modificato, e queste cose lo stanno aiutando. Bene, penalizziamole, creiamo situazioni di questo genere qua, ancora che l'Italia va sicuramente bene. Rendiamo anche atto e omaggio al presidente Paolo Ricci, che è uno che descrive questa condizione surreale con anche il sorriso, e questo vuol dire che è un grande presidente. Da buon emiliano non posso fare altro. Devo dire grande solidarietà e apprezzamento per questo. Grazie per averci dedicato questo tempo. Noi speriamo di essere stati utili a voi. Noi torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci qua, tornati in diretta e in attesa di un collegamento. Sentiamo un pochino Mario. Intanto Mario, nell'ultimo, che ti pare te di questo paese in cui si scambia un sottoposto? Si scambia, esatto, il de jure col de facto, cioè chi viene realmente inciso dall'imposta. Ma questa era una cosa che l'onorevole Boccia, diciamo, fatica a comprendere, e faticava a comprendere già da molto tempo, quindi avevamo già la percezione che sarebbe finita così. Io devo dire, visto che c'è questa idea di questa web tax, io volevo far notare agli ascoltatori che anche nel programma elettorale di Emmanuel Macron c'è la possibilità di tassare il fatturato, attenzione, il fatturato, non gli utili, delle aziende dell'economia digitale che sono delocalizzate, cioè delle over the top praticamente. Quindi se Macron, che come noto è il nuovo messia continentale, potrà magari esercitare una discreta spinta anche magari in chiave protezionistica rispetto agli invasori digitali americani, questa cosa potrebbe effettivamente prendere corpo. Quindi un tentativo del genere era stato fatto anche da David Cameron, tassare il fatturato come succedaneo, come proxy di utili che spesso non ci sono nella bottom line. Quindi penso che avremo di fronte un periodo di creatività nell'imposizione. Hai visto però che proprio in settimana una sentenza proprio in Francia ha rigettato l'idea. C'era una pretesa di 1.2 billion nei confronti di un over the top, e invece gli stessi giudici francesi hanno detto no. Che ma c'è pieno diritto di considerare invece l'assenza di una stabile organizzazione ai fini di fatturazione in Francia, mentre è valida la libertà di stabilimento in Irlanda. Se non stiamo ai fondamenti del mercato unico europeo, non penso che andiamo molto lontano, Mario. Ma è per questo che si rischia di evolvere verso la tassazione del fatturato come proxy degli utili, proprio perché l'orientamento giurisprudenziale francese, non solo italiano, è quello della stabile organizzazione. Per cui a un certo punto i governi europei, a caccia di gettito, ma anche di una leva negoziale protezionistica o difensiva. Ah, ecco, diciamola tutta, diciamo che è fisco ricattatorio però non è imposizione sui redditi, ma è fisco ricattatorio, è una pistola appoggiata sul tavolo, dai, su. Io non sto giustificando, sto semplicemente dicendo come potrebbe evolvere proprio per acquisire del leverage negoziale, ecco. A proposito di vicende internazionali, io comunque, malgrado che uno adesso non risponda al telefono, l'avranno sequestrato gli emissari perché Istanbul. Significative cose dal punto di vista dentro o fuori l'Europa sono da prendere in una certa considerazione. Cioè, da una parte c'è un mercato mondiale che si è abituato a un Trump che parla molto, ma danni reali ne fa di minore di quanto si temesse, perché così è in sintesi estrema. in sei mesi alla fine che cosa ha fatto? COP21, bah, l'influenza di questa roba immediata sui mercati è molto bassa, a dire la verità, e comunque ha reso più coesi gli altri, tanto per dirne un'altra. Di cose concrete, guardate che il repeal dell'Obamacare, come si vede all'interno dello stesso Partito Repubblicano, ha dei freni potentissimi. Altre grandi cose non sono venute, molte chiacchiere, molte tweet, però grandi danni non c'è nessuno, e tant'è che poi i dati del commercio mondiale della Grecia sono positivi, 1-1. Due, invece modifiche molto interessanti nei rapporti al margine dall'Unione Europea e con il problema medio orientale aperto, perché oramai, visto che è entrata in una fase di consolidamento l'azione russa e iraniana in Siria, perché anche questo significa il procedere della, tra virgolette, diciamo, liberazione di territorio iracheno da ISIS, al contempo avviene mentre l'Europa sta radicalizzando in peggio i suoi rapporti con la Turchia, e questa settimana il protagonista sarà la Germania, perché la Germania oramai fa politica estera lei per conto dell'Europa, visto che l'Europa non la fa. Qua non abbiamo la Mogherini, scusami. La svolta brutale è stata un peggior... Innanzitutto il freezing dei rapporti militari diretti, bilaterali, tedesco-turchi all'interno della NATO, con richiesta di far tornare indietro i mezzi aerei e militari tedeschi che sono alla base di Incirlik. Secondo, l'escalation è stato il ministro del due diversi componenti del governo tedesco che hanno detto innanzitutto ai turisti tedeschi state attenti alla Turchia, ma hanno iniziato a dire alle aziende tedesche si modificano i rapporti del bilaterale turco, quindi attenti a investire, visto il rilievo straordinario che hanno gli investimenti da una parte tedeschi in Turchia e dall'altra l'importanza delle rimesse dei turchi, la Germania, verso la Turchia. Questa è una svolta avvenuta in settimana che i giornali italiani, secondo me, sottolineano poco, mentre è una svolta di grande rilievo nei confronti di un partner che sta prendendo pieghe sempre peggiori. Il partner è la Turchia. La Turchia, abbiamo appreso in settimana, la Jihad diventa un punto di riferimento nei libri di testo per i giovani turchi, voluto direttamente da Erdogan. Si è tornati a livelli di arresti al giorno intorno ai 100 individui, ed è la Germania da sola che si sta regolando questa partita, purtroppo, mentre noi siamo persi in piccole partitine tipo quella italo-francese dei cantieri, certo. In cui i giornali italiani continuano ogni giorno, ecco i francesi che ci vogliono dire, no? Cioè, bisognerebbe giocarle su tutt'altro tavoli e con tutt'altro orizzonte queste partite. Lo sta facendo, ohimè, a me dispiace dirlo, soprattutto la Germania, e devo dire la verità, io sono curioso di vedere l'edizione cartacea dopo quella annunciata da Spiegel online dell'ipotesi del grande cartello dell'industria automobilistica tedesca, perché qui siamo di fronte all'ipotesi che anche i device sugli ossidi di azoto derivassero da una roba concordata direttamente all'interno della federazione costruzione dei costruttori di automobili, che, pensate, è lei detentrice, la federazione, della molecola di sintesi del liquido che viene utilizzato da questi device. Io questo non lo sapevo, quindi l'ipotesi è che sia stata una cosa concordata per anni e anni e anni da Daimler, Benz, BMW e tutti loro, che però se esce fuori è un colpaccio terrifico, caro Alberto. Sì, anche perché c'è una grande dipendenza del diesel in tutta l'industria tedesca, in generale, come dire, la reazione del mondo automobilistico rispetto alle grandi innovazioni che stanno venendo, questa volta sì, dall'America, è una reazione di chiusura e di tentativo di protezionismo. Non è un bel segnale, devo dire, per l'importanza che l'industria automobilistica sta avendo, perché ricordiamo che nonostante qualche ritocco, Mario, magari me lo puoi confermare anche tu, dobbiamo un bel pezzo della ripresa del nostro PIL italiano proprio alla filiera automobilistica, vogliamo ricordarlo questo, giusto perché, quindi il fatto che ci siano questi segnali di collusione, cartello, tutti da provare, per carità, insomma sono tanti, coerenti e tutti nella stessa direzione, e se devo vedere quello che sta succedendo invece sul tema della mobilità elettrica, vedo ancora grande dispersione e poca sintesi, mi dispiace dirlo, ma non sono bei segnali. Voi per l'industria europea. Voi stravedete tutti per Elon Musk, mi entusiasma per quello che fa fuori dalla promessa su cui raccoglie tanti soldi che non so che remunerazione avranno sul solo elettrico dell'auto, però detto tutto questo è un personaggio straordinario straordinario, anche questa autorizzazione che ha avuto l'hai vista, orale, sì, così dice, sì. Beh, con l'amministrazione attuale è tutto orale. È tutto orale. Però l'Hyperloop, che per fare in 24 minuti da Washington a New York, beh, insomma, devo dire, non è una brutta. Sì, nel momento in cui noi siamo qua a congelare il traforo per la TAV in Val di Susa dopo 10 anni, direi che sono segnali classici di come le velocità tra le infrastrutture, perlomeno le imprenditorialità americane e quelle italiane, vanno avanti. Allora, un minuto e torniamo con Renato Cifarelli, la voce che ci riprende e ci rifà tornare con i piedi per terra dei guai dell'impresa italiana. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Ed eccoci tornati in diretta e finalmente c'è la formazione completa, perché oltre ai compari Carlo Alberto è collegato Mario Seminieri, c'è anche Renato Cifarelli. Renato, c'è anche... Buongiorno ragazzi, come state? Ma non sei in moto adesso? No, no, in questo momento no, sono ho finito il mio viaggio, ma io sai che ho ricevuto di nuovo lettere. Dunque, io però queste non te le giro, perché sono lettere di ascoltatrici. Sì. Perché di fronte al fatto che arrivano lettere ascoltatrici che dice: ma perché ci farei Giannino, sei meschino? C'è una che mi ha scritto: Giannino, no, sei meschino. Senti, arrivano le lettere delle ascoltatrici. Intanto la mia fidanzata non ascolta la trasmissione. Tu passa. No, io non te la passo, perché ho ricevuto la lettera che dice: Giannino, sei meschino. La voce calda di Renato Cifarelli mi induce a chiedere più particolari. Sì, dico, sì, ho detto: scusi, che particolari vuole? No, va in moto, deve essere giovane, ha una voce calda, mi piace. Ho detto: guardi, io non le rispondo, non vedo gli estremi per una cosa. Lei non mi sta chiedendo cose di lavoro. Cioè, non è possibile che mi evochi queste cose. Ma al di là di tutto, no, non voglio scherzare. No, senti, io invece la prima cosa che volevo dire pubblicamente è che, siccome sono un bravo CEO, un bravo amministratore delegato, sì, se c'è qualche grande azienda che mi vuol far fare l'amministratore delegato per un annetto per poi darmi la liquidazione, sono assolutamente disponibile. Sì, certo. Cioè, sono molto disponibile. Ma a te, siamo concreti, a te i 30 milioni di buonuscita che si pappa Cattaneo perché è mandato via da Vivendi alla testa di Team Telecom Italia, che impressione fanno? Io sono sempre per il mercato. Una volta ho fatto una discussione con una persona, tra l'altro proprio su Cattaneo, quando ancora era alla Terna, e ho sempre detto: allora, al di là dello scherzo mio, di persone che possono assumere certi incarichi non ce ne sono tantissime, e quindi è abbastanza naturale che siano molto pagate. Quando poi li mandi via mentre stanno facendo un buon lavoro, solo per questioni, come hai detto giustamente tu all'inizio della trasmissione, prettamente politiche, è evidente che chi va via si fa pagare bene. Poi sai, è sempre una questione di mercato. Pazzesco, ma è così. È pazzesco, ma è così, perché i risultati poi parlano chiarissimo, cioè il ritorno a un rendimento. Il problema vero è che quando tu mandi via una persona che sta facendo bene, che ha un contratto, eccetera, eccetera, non è che gli puoi dire cioè danno delle liquidazioni milionarie a gente che si comporta male. Però qui è un poi che gli stipendi di una certa categoria, di una certa fascia, siano probabilmente un po' contro a quella che potrebbe essere un'etica del lavoro, possa essere anche d'accordo. No, aspetta, però questo è il punto che io volevo sollevare con te, perché io volevo sollevare con te, e qui c'è un problema. Forse la questione è che all'interno dei comitati remunerazioni, perché stiamo parlando di una fior di società quotata, quindi ci sono, certo, tutta la corporate governance è sottoposta a organi in cui sono rappresentati anche gli amministratori indipendenti, anzi, fondi 10 indipendenti su 15 allora, la domanda che ti faccio: secondo te non dovrebbe essere, tra virgolette, visti i tempi che corrono, quello che abbiamo appreso, quello che abbiamo visto, l'andamento dei redditi, eccetera, messi dei paletti fin dall'inizio? Cioè, il problema non è oggi non pagargli se quello era l'accordo, ohimè, e viene da un accordo le cui condizioni sono quelle che hai detto tu, Renato. Quello è bravo, ha fatto vedere che è bravo con i risultati, se chi lo cambia via schiocca le dita, non in mancanza di risultati concreti, ecco che il paracadute previsto scatta, ed è giusto così. Ma la domanda è che forse all'inizio nel comitato di remunerazioni paracadute di quei tipi non dovrebbero passare. Tu che dici, Renato? Io su questo sono d'accordo, poi se penso agli azionisti, eccetera. Sai, poi dipende sempre molto anche dalla grandezza della società, perché è vero che sono tantissimi soldi visti dal punto di vista di chi come noi lavora tutti i giorni per cifre che sono infinitamente lontane da quelle. Io sono già una persona fortunata, però è così un po' in tutto il mondo, quindi è un po' una lotta contro, è quello che dicevo prima, cioè di persone che riescono ad andare in quella posizione lì, non è che ce ne, cioè non è che li trovi. Che dice caro Alberto pensando alla corporate governance? Non dovrebbe mettere un freno sui paracaduti fin dall'inizio, no? Sì, però diciamo le condizioni erano di un bonus a fronte dei risultati e in caso di esonero anticipato questo bonus andava moltiplicato, quindi il problema è che quando tu fai dei patti all'inizio devi rispettare, cioè e se i patti erano questi, io dico scusate ma quello che è dovuto, il contratto va rispettato, no, ma quindi intenta. Scandalizzarsi per queste cose qua per me è sbagliato. Poi detto questo, fossi stato in consiglio del Ministero come Italia, ero candidato una volta, hanno ben pensato che sarei stato un po' troppo pericoloso. Diciamo, probabilmente non avrei firmato quella cosa, sono parte del comitato remunerazione di qualche azienda quotata e sono abbastanza severo da questo punto di vista. Però i bonus legati ai risultati li approvo sempre. No, ma i bonus ai risultati anch'io. Però... E siccome quei risultati sembravano esserci, e se ci saranno, risultati... adesso li vedremo la settimana prossima. Quindi, se ci sono dei risultati, non ho capito che non devo remunerare un manager, non ho capito. Anche perché stiamo parlando di un'azienda grandissima. Di un'azienda grandissima, però, ragazzi, non fingiamo di non vedere il problema. 30 milioni per un anno e due mesi sono incomprensibili agli occhi del 99.9% degli italiani, ma non degli italiani, sarebbe così in ogni altro paese, diciamoci la verità. E allora qui io non sto discutendo il presupposto legale è in dubbio, e io poi tra l'altro sono un grande sostenitore di Cattaneo, perché ho imparato negli anni, seguendolo come osservatore nei diversi incarichi che ha ricoperto, dovunque con grande buonsenso e pochissima logica del voler apparire, e anche per questo lo apprezzo, ha prodotto risultati molto significativi. Bastò vedere come Interna innalzò in maniera verticale il numero di fondi internazionali presenti nel capitale, cioè è uno anche bravissimo tra l'altro nelle relazioni con i mercati e con gli investitori, e dovunque ha portato risultati tangibili, e proprio per questo non fa parte di Camarilla, scusate se ve lo dico, perché prima a un certo punto dicevano prima era di destra, poi era diventato sinistra, invece non è così. È stato messo lì in realtà da Mediobanca con un curriculum di risanatore e organizzatore un po' rigoroso, cosa che ha seguito, non è un grande illuminato stratega. Si parla di lui come un candidato a Mediaset aveva bisogno di una, diciamo, riverniciata organizzativa. Sei molto generoso. Sì, perché voglio bene agli amici di Cologno. Però la verità è che non vedo perché dobbiamo incolpare Cattaneo. La responsabilità è che firma questo contratto. I contratti si firmano in due, e se poi lui ha fatto un bonus meritato, non vedo perché non riconoscerlo. Sinceramente, a me i ripensamenti pauperisti del giorno dopo. No, però, scusami, scusate, Oscar, non è di generazione. Torno a chiedere a Renato una cosa. Mettetevi nei panni. Faccio un esempio, Marco Bentivogli, il segretario della FIMCISL, a cui voglio molto bene, che stimo, vedo ogni giorno che dice cose per cui tra un po' mi piove la tessera, ma lui che spiega ai suoi, a differenza della FIOM, che talvolta bisogna avere anche la moderazione salariale, bisogna capire l'impresa, bisogna dare una mano da dentro, eccetera eccetera, e quelli gli dicono sì, ma allora di fronte a 30 milioni, ma scusa, mi faccio scavalcare da quello della FIOM che si mette a urlare. Ecco, mettetevi nei panni di chi è riformista e magari fa la lesina in basso. Renato. No, sai cosa c'è probabilmente? La mancanza di una consapevolezza di quello che dicevi tu, cioè di quanto una persona capace in un'azienda del genere può creare valore. Cioè stiamo parlando di aziende che potenzialmente guadagnano miliardi sì, di euro, sì, no? Allora, tu capisci che se io ho un bravo CEO che è in grado di far entrare i fondi, far alzare, creare valore alzando la quotazione in borsa, portando l'azienda attraverso la riorganizzazione a guadagnare molto di più, all'interno di tutta questa cosa qua, poi non è un lavoro che fa lui da solo, però all'interno di tutta questa cosa qua i 30 milioni diventano, cioè, in azienda, sono commisurati, io la domanda che faccio sempre è quanto mi rende una persona e più che quanto mi costa. Però allora Renato, bisognerebbe spiegarla bene, perché altrimenti 30 milioni sembrano un affronto. No, ma comunque sono una cifra molto elevata, soprattutto come liquidazione a fronte di un anno di lavoro. Io non ti sto dicendo che è giusto, e sono d'accordo con Carlo Alberto, contratti si firmano in due, se sei bravo a confermare il contratto. Ma Mario che dice? Mario che dice su questo? Ma io sono abbastanza dalla posizione di Oscar, nel senso non è certamente colpa tra virgolette di Cattaneo e di chi gli ha sottoposto un contratto del genere che lui avrà chiesto e ottenuto, però a questo punto, scusatemi, io sono anche preoccupato per gli azionisti di Telecom. Oh, bravo. Perché se si continua a fare un giochino di questo tipo con delle buone uscite stabilite ex ante nella santità dell'autonomia contrattuale, la società distrugge valore. Perché per quanto io stimi Flavio Cattaneo per quello che ha fatto, tu hai parlato di Terna, io aggiungerei NTV Italo, è un autentico miracolo, però se si continua per i casini politici a mandar fuori gente a botte di 20, 30, 40 milioni dopo 15 mesi di lavoro, l'azienda distrugge valore. Sì. E non mi pare che Telecom abbia creato molto valore o i prezzi di borsa incorporino tutto questo valore. E vedrete che continueremo ad accettarle, ma grazie al cielo il nostro Renato Cifarelli alla testa del suo gruppo non corre questo rischio, perché lui sta lontano dalla politica. Abbracci, abbracci, abbracci a tutti, cari ascoltatori, continuate su Radio 24. Ciao, ciao.